America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. I have my own views, I want to keep them quiet for a little while because if I ever end up in the mist, that would be a great achievement. Donald Trump, beh, devo dire, presidente sempre pieno di sorprese, soprattutto sul fronte medio orientale, a tutto campo, dal tema dell'immigrazione della Libia, delle contraddizioni che ci sono con l'ISIS che cerca di rifugiarsi in Africa, al tema della pace in Medio Oriente, lo spostamento a Gerusalemme della capitale israeliana, al nuovo rapporto con l'Arabia Saudita. Ecco, di questo tema, che sarà un tema dominante nel 2018, voglio parlare con Francesco Semprini, corrispondente della Stampa, è stato ospite di America 24 più volte, ma soprattutto è stato sul campo. E dunque lo saluto. Buongiorno, Francesco. Buongiorno Mario, buongiorno America 24. Francesco, siamo, come hai sentito, in chiusura d'anno. Cominciamo da questa nuova equazione di Trump sul Medio Oriente. Da una parte l'Arabia Saudita, dall'altra Israele, Gerusalemme, beh, magari anche l'Iran, terrorismo. Ecco, cosa ci possiamo aspettare da questa complessa equazione per il 2018? È un cambio di passo significativo da parte di Donald Trump rispetto alle precedenti amministrazioni, che rilancia ovviamente l'alleanza con Israele, ma soprattutto consegna all'Arabia Saudita un ruolo del tutto nuovo, cioè quello di essere un po' il broker del nuovo processo di pace per quanto riguarda in particolare il mondo arabo. Quindi senza dubbio veramente una sorta di cambiamento molto profondo da parte di Donald Trump. Ma avremo ancora attacchi? Sono cadute le roccaforti? L'ISIS resterà fra noi? Califfato come entità territoriale è franato ovviamente, ma l'ISIS non è morta, l'ISIS continua ad esistere, ovviamente adesso sarà priva di quello che era il suo principale sponsor, ovvero l'Arabia Saudita, che agli occhi dell'opinione pubblica internazionale avrà modo in questo 2018 di riscattarsi rispetto alle luci e le ombre nelle quali ha diciamo navigato invece negli anni passati, soprattutto per quanto riguarda i conflitti in Iraq e in Siria. Ecco, e se dobbiamo guardare al 2018, al processo di pace, quindi tu ritieni che, nonostante la decisione di Trump su Gerusalemme, il dialogo potrà avanzare? Vedremo qualcosa di concreto nel 2018? Ma senza dubbio il dialogo potrà avanzare, perché l'Arabia Saudita ha questo compito di promuovere il dialogo del processo di pace. Dobbiamo però ricordarci che l'Arabia Saudita si contrappone all'Iran e tutto quel blocco sciita, che invece è uscito molto rafforzato dai conflitti in Siria e in Iraq. E quindi, se tu dovessi fare un pronostico, abbiamo visto che Putin uscirà dalla Siria, quindi cosa sta capitando su quel fronte? Putin uscirà, come ha detto, con le sue forze militari, con i suoi uomini, perché vuole evitare quello che è successo all'America dopo l'Iraq, dopo la caduta di Saddam Hussein, quindi una mossa molto assurda da parte sua, ma Putin, come si dice in America, vorrà tenere sempre il dito nella torta, nel senso vorrà mantenere comunque un controllo, e questo controllo lo potrà avere attraverso il suo principale alleato nella regione, ovvero Teheran. Bene, dunque, guardando al 2018, degli spiragli si aprono, questo mi sembra di capire che sia il tuo messaggio. Dovremo, come dice Francesco, però aspettarci altri attacchi casuali dell'ISIS, come quello che abbiamo visto a New York, nella metropolitana, un attacco con un oggetto rudimentale che ha fatto molta paura, ma per fortuna pochi danni. Ecco, arriviamo alle sponde di casa nostra, Francesco. Tu sei stato, dicevo, inviato al fronte, hai visto la caduta di alcune roccaforti dell'ISIS, ce le hai raccontate, più recentemente sei stato nello Sahel. Raccontaci cosa hai visto nello Sahel, cosa sta diventando questo pezzo d'Africa per noi, per il rischio di nuovi flussi migratori. Mario, sta diventando il nuovo incubatore della Jihad 3.0, cioè ovvero della nuova Jihad, dei transfughi del califfato, di coloro che si stanno appunto rifugiando in una delle zone più impervie della terra per riorganizzarsi, ma riorganizzarsi in un modo totalmente nuovo, ovvero creare una sorta di holding con chi invece gestisce i grandi traffici illegali, ricordiamo i traffici di esseri umani che ci interessano da vicino, ma anche traffici di cocaina, traffici di armi, traffici di uranio. Ebbene, l'obiettivo è quello di creare in qualche modo una sorta di alleanza tra grandi trafficanti e nuova Jihad, e avere poi quello sbocco naturale nella sponda sud del Mediterraneo, in particolare nella Libia, che è un po' il cortile di casa nostra. Quindi è un fenomeno che ci interesserà molto molto da vicino. E quindi c'è il rischio che ci sia, come dire, un inasprimento prima che le cose possano migliorare, o no? c'è il rischio che ci sia un inasprimento e c'è la necessità che il baricentro, che l'attenzione, che la linea di confine che serve per contrastare questo tipo di fenomeno non si limiti alla sponda sud del Mediterraneo, ma vada più giù, verso appunto quella regione del Sahel che è considerata il nuovo punto critico del Mediterraneo. E tu ritieni che ci saranno minori o maggiori flussi migratori l'anno prossimo? Non dimentichiamo che questo avrà un impatto anche sul dibattito elettorale. Ci saranno potenziali maggiori flussi migratori che, se contrastati in maniera opportuna e nei tempi opportuni, ovvero prima dell'inizio della primavera, forse potranno in qualche modo essere fermati. Ecco, grazie Francesco, questo direi è un quadro molto preciso, puntuale, che possiamo avere anche perché Francesco va sul posto. Francesco è corrispondente agli Stati Uniti, però si è recato nella regione, ha studiato le cose in modo diretto, e stavamo parlando la settimana scorsa proprio col duo direttore su come sta prendendo forma il nuovo giornalismo. Raccontavo di alcuni scoop che avevamo fatto e che oggi non sarebbero possibili. Anzi, mi viene in mente Francesco, perché voi sapete, abbiamo lavorato insieme, ha lavorato alla EMC, e ricordo che una volta ti dissi: ma tu devi andare a vedere Berlusconi che faceva una conferenza stampa a Andrews Air Force Base, e non eravamo stati accreditati come EMC, come agenzia che lavorava in quel momento per APICOM, per ASCA News, e non più per l'ANSA. E ti dissi: tu non tornare indietro se non sei riuscito a penetrare la base, fatti arrestare, altrimenti avrai dei problemi. E tu sei riuscito a entrare nonostante tu non fossi accreditato. Come hai fatto? Raccontiamolo, perché anche questo è giornalismo. Così è stato, Mario. Infatti ho preso la lettera alle tue indicazioni e sono riuscito a entrare nella base di Andrews, fra l'altro una delle basi strategiche da dove il Presidente degli Stati Uniti parte col suo Air Force One per le missioni all'estero, quindi una base particolarmente controllata. Il segreto fu intrufolarmi in qualche modo con quelli che erano alcuni elementi della delegazione. Beh, scusa, ecco, io ti dissi, beh, affitta una macchina di queste nere e fai finta di essere della delegazione, e in qualche modo ha funzionato. In qualche modo ha funzionato, siamo riusciti, diciamo, ad aggirare i controlli ed entrare in questo piccolo aeroporto dove era atteso appunto Berlusconi, e al suo arrivo, appunto al suo atterraggio, mi sono fiondato verso di lui e in qualche modo, vincendo anche le resistenze della concorrenza, siamo riusciti ad incassare una bella e corposa intervista con l'allora presidente. Eh sì, mi pare che l'avevamo data anche in anticipo, no? Rispetto all'ANSA. Erano tempi eroici secondo te, o sono cose ancora possibili? Ma erano tempi diversi, erano tempi in cui internet non era ancora così aggressivo come lo adesso, in cui i social non c'erano e in cui valeva moltissimo il lavoro sul campo. Questo non vuol dire che oggi non valga, assolutamente, anzi, proprio oggi che c'è una massificazione della notizia dovuta proprio ad internet e dei social, due sono gli elementi che devono prevalere, ovvero il lavoro sul campo, la presa diretta e la qualità dell'informazione. E guardando il 2018, questi saranno i due elementi, le due priorità che accompagneranno sempre il mio lavoro, e credo che siano quelle che nel tempo possono fare la differenza. Bene, l'anno volge al termine, una trasmissione volge al termine, ma i fatti del mondo passano e continueranno a passare per questa sponda atlantica, dove sorgono mille altri approfondimenti, dei momenti di tensione forte e frontiere inesplorate. Scrivetemi su Twitter @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, Francesco, ne hai scelte altre. Cosa vogliamo scegliere in questa chiusura d'anno? Mario, in attesa di quello che ci porterà di nuovo e di bello il 2018, appunto in attesa, Wait degli M83, un gruppo molto moderno ma un brano melodico che sono sicuro farà breccia nelle orecchie e nei cuori di tutti gli ascoltatori di Radio 24. Beh, un brano molto melodico, consiglio agli ascoltatori di andarsi a vedere il video, e così è un video molto futurista, come se fossimo su un altro pianeta oppure sul pianeta Terra dopo qualche cosa di grave che è capitato, però il Wait, come dici tu, ha sempre la connotazione della speranza. Non guardiamo al passato, questo credo che sia il messaggio degli M83, ma guardiamo al futuro, e dunque guardiamo con gli M83 e con l'attesa al 2018. Give New York è tutto, Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a domani, goodbye and get going!